Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Lui vive nello scantinato. Poverino. No, ma tutta la palazzina che sta sopra lo scantinato è sua, eh? Ah, beh, per fortuna, ma di chi stiamo parlando? Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo. Vive in uno scantinato ed è un matematico geniale. O forse non lo è più. Al momento si appassiona di orari degli autobus in Inghilterra. Si chiama Pandora Virus, ma bene bene non sappiamo ancora che cosa sia. Troppo grande per essere un virus e troppo piccolo per essere un batterio. La chiamano economia circolare oppure blue economy. Qualcuno parla anche di fabbriche intelligenti. Ma al di là delle definizioni, è bene dire che si tratta dell'impresa più importante per il nostro futuro. Si apre il 30 settembre la settimana europea delle biotecnologie. In tutta Europa, ma qui da noi diventa anche l'occasione per parlare di un'industria che stiamo sottovalutando. Sì, lui vive nello scantinato e si ciba di sgombri. Sgombri in scatola, suppongo, quelli sott'olio. Sì, sì, quelli lì, esatto. Ho chiesto spiegazione ad Alexander Master, che è l'autore del saggio Il genio nello scantinato, edito da Adelphi. Simon adora gli sgombri, ha un rapporto quasi di intima passione con gli sgombri. Se li mangia tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno, e posso garantirvi che a volte l'ho anche visto mangiarli tre volte al giorno, so per certo. Però non esistono solo gli sgombri, c'è anche il rapporto appunto con il cinese bollito. Cinese bollito, ho sentito bene. Giusto, giusto, cinese bollito, ascolta. Beh, all'inizio è stato veramente un grande mistero, perché insomma dovete sapere che io vivo al piano di sopra, vivo al piano terra, perché appunto Simon vive nello scantinato. In questo scantinato c'era un odoraccio tremendo che arrivava fino a casa mia e io non riuscivo a capire il perché. Sembravano delle strane spezie cinesi, sembrava addirittura questo odore, tanto era acre, tanto era spiacevole, che fosse il cadavere di un vecchio cinese bollito, insomma, per cui io facevo tutte le lucubrazioni possibili e immaginabili. Una volta ho dovuto addirittura andarmene da casa, da quanto forte era questo terribile odore. Però una volta sono anche riuscito poi a scoprire di che cosa si trattasse, perché sono capitato lì, perché mi ha chiamato e ho visto tutti i pacchetti di questi risi speciali cinesi, organici più o meno scuri. Ma dove siamo? A Cambridge, in Inghilterra, e lui è un grande matematico. Ma chi, quello dello sgombro e del cinese? Sì, lui si chiama Simon Norton e Alexander Master, l'autore della biografia, ha iniziato il rapporto con Simon da inquilino di un suo appartamento, quello appunto sopra il seminterrato. Master è anche lui un matematico di formazione, ma soprattutto è un bravissimo divulgatore, scrittore di scienza, e così è nato il libro. Simon Norton è un genio fin da piccolo. Cosa che capita spesso in questi personaggi. È vero, solo che lui ha iniziato davvero presto. Aveva 2 anni quando sua madre notò per la prima volta, perché gli aveva regalato dei Lego, che lui invece di giocare come fanno tutti gli altri bambini e quindi fare confusione, buttarli di qui e di là, faceva quasi una mappa con questi piccoli mattoncini, cioè faceva una montagna con uno dei cubetti della Lego, una seconda montagna con due, una terza con tre e via via. Insomma, la mamma capì che il bambino stava capendo, stava imparando comunque l'uso delle cifre, e lei l'ha tenuto d'occhio, ha capito che questo processo di sviluppo che lui aveva nei confronti della matematica era molto importante. Era molto importante non tanto per quelli che erano i modelli che il bambino produceva con il Lego, ma proprio perché, e questo è il segno che il bimbo ama davvero la matematica, il bambino giocava e produceva i modelli con il Lego che lo intrigavano. A 10 anni faceva delle cose che la gente normale fa generalmente all'università, a 14 aveva già vinto delle gare di matematica in Russia. Simon Norton negli anni 70 ha lavorato con grande intuizione insieme a un team di matematici alla costruzione dell'Atlante di tutti i gruppi e sottogruppi, un'opera colossale che fa parte della storia della matematica. I gruppi sono delle cose sulle quali, degli oggetti matematici sulle quali si fa molta ricerca e hanno anche grandissime applicazioni. E adesso in che campo di ricerca opera? Oh, adesso si interessa di autobus. No, dai. Ascolta. I think when I was writing this book, one of the things that struck me was that there are many il titolo originale di questo libro era La biografia di un uomo felice, e non è un caso che io avessi scelto questo titolo, perché se prendiamo in considerazione quello che lui ha fatto quando era giovane, molto giovane, appunto, una volta si ritrovava all'università, era entrato in uno spogliatoio, in questo spogliatoio c'erano appesi, o anticamera, insomma, quel che era, c'erano appesi degli orari di autobus, e questa cosa lo ha entusiasmato tantissimo. Uno, perché si è accorto che attraverso il modello degli orari degli autobus c'era, si sviluppava una rete, e quindi qualche cosa che lui dal punto di vista matematico capiva, non solo capiva ma lo rendeva entusiasta, perché attraverso questo strumento della rete degli autobus, dei trasporti urbani e extraurbani, lui finalmente aveva la possibilità di conoscere il suo paese, visitare il suo paese, sapere delle cose nuove. La cosa però che lo fece assolutamente sconvolgere fu quando in Gran Bretagna si decise in modo abbastanza infelice di riorganizzare l'intera rete dei trasporti su strada. In un modo che Simon non capì, nel senso, venne completamente preso alla sprovvista, e quello che nella sua testa era un'organizzazione, diciamo, molto vicina alla perfezione, era diventata improvvisamente una cosa che non capiva più, e questo segnò in un modo o nell'altro la fine della sua carriera di matematico. Perché? Perché dovette dedicare la maggior parte del suo tempo a ristudiare questi orari, a rimetterli a posto, a visitare i posti, a prendere gli autobus, a vedere se tutto andava, insomma, se tutti i tasselli di questo enorme, gigantesco puzzle andavano a posto. E questo non gli lasciò più tempo per studiare la matematica. Però lui è contento. Felicissimo, dice Master, il suo biografo. Simon Norton è un uomo sereno. Ma tornerà mai a fare il matematico? Chi può dirlo? Allora, Il genio nello scantinato, edizioni Adelphi, libro strano, scritto con uno stile molto singolare, a volte poetico, con dialoghi fra Simon e Alexander, ma anche con passaggi sulla matematica, quando per esempio si racconta del gruppo mostruoso, di cui qui non dico niente. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È un po' inquietante questa storia che stiamo per raccontare. Stiamo per parlarvi di un gigante. Pandora Virus, per la precisione. Il nome non è dei migliori, non è bellissimo, perché uno dice, vabbè, cosa ho preso, il Pandora Virus? Sì, già, Pandora rimanda, sì, rimanda un caos. Po'. Sì, è il caos più a una malattia brutta. Sì, cioè, sì, ti è venuto un Pandora Virus. Sì. No, va bene, dai, tranquillizziamo tutti. In realtà non ne sappiamo molto, ma sicuramente forse sappiamo che non è pericoloso per l'uomo, forse. Forse. Vabbè, andiamo da un esperto e ci facciamo un pochino raccontare che cos'è, perché anche ovviamente tra gli esperti di batteri, virus, è ancora un po' un'incognita. Diamo il benvenuto a Walter Tandoi, buonasera. Buonasera a voi e ai radioascoltatori. Lei è microbiologo dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR. Sì. E rimettiamo un po' in mano a lei la spiegazione di quello che è Pandora Virus, perché ancora bene bene non si sa. E noi abbiamo detto che è un po' inquietante. Perché? L'aggettivo è veramente, l'avete scelto con cura, inquietante, perché il nome Pandora ci richiama un po' alla mitologia greca, quindi ci ricorda un po' che quando questo famoso vaso fu aperto uscirono tutti i mali del mondo praticamente, la speranza rimase sul fondo e uscì in un secondo tempo. Ma veniamo un po' a questa scoperta. Io ho letto l'articolo, ma ha incuriosito anche a me, ovviamente. Lei fa riferimento ovviamente a un articolo che è uscito su Science, che è la rivista più prestigiosa scientifica, in cui viene descritto per la prima volta questo mega virus, che forse virus non è, insomma. Sì, è proprio questo il punto. Si sta decidendo dove collocarlo, e questo sarà l'oggetto degli studi nei prossimi anni. Che cos'è questo organismo? In pratica da tempo che si stava studiando su questi virus di dimensioni maggiori, e si era arrivati ad organismi che avevano circa 1,4 milioni di basi. Il megavirus al momento prende la palma del virus più grande, perché più di 2 milioni di basi come dimensioni. Lei sta parlando di basi genetiche, perché Pandora appunto è un virus più grande, un virus tradizionale, quante basi genetiche ha? Ci faccia un po' capire il paragone. Un virus normale ne può avere da 300-400 mila fino a 500-600 mila, Pandora ne ha 2 milioni, quindi è un virus di dimensioni più grandi di quelli che normalmente abbiamo conosciuto e studiato per molti anni. Ed è qui che nasce proprio il dibattito su che cos'è, se farlo rientrare tra i virus oppure qual è il regno più grande. Certamente, ecco, i regni che noi oggi conosciamo tradizionali sono tre: i batteri, gli archea e gli eucaria, che contengono dalle piante fino ai primati fino a noi. I virus sono sempre stati un pochino a parte, perché sono organismi che non hanno capacità indipendente di riprodursi. Quindi ecco perché sempre abbiamo studiato quelli piccoli. Questo che è piuttosto grande, quindi, comincia a confinare, ad arrivare dove sono i batteri. E allora dobbiamo continuare a considerare questi virus come organismi separati, che non sono neanche da considerare viventi, o al contrario dobbiamo aprire un po' le nostre menti e cominciare a vedere una luce diversa. E questo è il punto degli studi attuali. Cioè come forme di vita vere e proprie. Sì, c'è chi parla di una forma di vita che ha delle sue specificità. Sì, esattamente. Il virus, un po' gli autori adombrano questa ipotesi nel loro articolo, questo di cui parlavo prima su Science. Questo virus deriva da un ancestore che era più o meno come gli altri batteri, e poi quando si è specializzato all'interno delle amebe dove si produce ha perso parte del proprio materiale genetico, o al contrario è un organismo che ha acquisito proprietà genetiche dal suo ospite. Io personalmente propenderei semmai più per la prima ipotesi che fanno gli autori, cioè è possibile che questo organismo, nei tempi veramente lontani, era un organismo dotato di capacità maggiori e mano a mano le ha perse. È un fenomeno molto comune nella biologia questo, nei rapporti tra gli organismi viventi. Un organismo tende a perdere ciò di cui non ha bisogno. Un parassita perché deve portarsi dietro tutto un macchinario complesso da riprodurre se può sfruttare adeguatamente invece quello dell'organismo ospite? Quindi bisognerebbe ricercare il perché, insomma, la motivazione del fatto che si porta dietro tutta questa genetica, tutte queste basi che dicevamo prima. Sì, esattamente. Come mai questo virus così grande contiene tutti questi geni? Qui il punto, ecco perché hanno usato il termine Pandora nel dargli il nome, più che associato a mali, se mai ne parleremo, non c'è da preoccuparsi assolutamente. Ecco, sì, infatti all'inizio lo dicevamo, adesso le avremmo chiesto della pericolosità. Sì, ecco, ma il punto è il nome che gli hanno dato probabilmente è per la curiosità che sottintende questo virus. Andiamo ad aprirlo, apriamolo, a tutti questi geni che sono tanti, confrontabili con quelli di un batterio. Perché se li è portati dietro? Come mai? Con quali meccanismi? Noi biologi vediamo un po' tutto il mondo sempre il rapporto evoluzionista, e questo è il punto chiave. Quindi avere un organismo nuovo così grande che confina tra il mondo organizzato di batteri, archaea, eucarioti e quello dei virus può gettare nuove luci e farci capire come dei vari organismi si sono sviluppati altri. C'è stato ecco, ma senta Tandoi, sì. Dov'era? Come mai l'abbiamo scoperto? Dove l'hanno adesso? Isolato? Cioè... Sì. Dunque, questo questi due ne hanno isolati due per la verità. Uno deriva da una pozza paludosa dell'Australia e un altro invece nella zona costiera vicino ad un fiume. Quindi sono ambienti effettivamente poco studiati, ma sotto il microscopio in continuazione emergono sempre nuove particelle, nuovi organismi che suscitano interesse. La difficoltà è nel saperli isolare, nel saperli conoscere e poi nel saperli studiare adeguatamente con tutti i metodi nuovi biomolecolari che oggi abbiamo. Ed è pericoloso per l'uomo? Ecco, questo guardate, questo tranquillizziamo subito i nostri radioascoltatori, possono andare a dormire tranquillamente. No. Sottolineiamo un concetto base in biologia, gli organismi che vivono a contatto con altri derivano strettamente come proprietà da quelle degli ospiti. Questi si sono sviluppati, mantenuti, qui parliamo di milioni di anni sicuramente, crescendo su delle amebe, sono dei protozoi, che è un ambiente totalmente diverso totalmente da quello dell'essere umano. Quindi hanno sviluppato meccanismi in grado di decifrare i codici di questi semplicissimi protozoi che sono le amebe. Quindi sicuramente possiamo dire con certezza che questi organismi non sono assolutamente in grado di andare a comprendere, capire e decifrare i meccanismi genetici di un essere umano. Okay. Grande com'è, potrebbe darci un pugno, insomma, ecco, forse quello può essere pericoloso. Ecco, questo magari dobbiamo stare più attenti, ma il microscopio ci aiuterà in questo. Dovrebbe, dovresti accorgere. Le vaccine ci cominciamo a spaventare. E schivarlo. Grazie Tandoi, va bene, buon grazie lavoro. Grazie a voi e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Buona ricerca, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è chi la chiama economia circolare oppure blue economy, si parla anche di fabbrica intelligente. Ci sono diverse definizioni, ma il concetto è molto preciso e forse, senza tema di essere troppo enfatici, potremmo definire tutto ciò, ed è di quello di cui vi stiamo per parlare, come forse la cosa più importante che dovremmo fare per il nostro futuro. Però qui parliamo di economia circolare perché è il titolo di un convegno che ci sarà questo martedì che viene, l'1 all'Università Bocconi di Milano con inizio alle ore 14. E ho qui con me questa sera Fabio Terragni. Buonasera Terragni. Buonasera a voi gli ascoltatori. Amministratore delegato di Alchema, che è una società che fa gestione di progetti particolarmente impegnata nel campo dell'innovazione e anche delle questioni ambientali. Allora, Terragni, diamo una definizione di economia circolare e voi usate questa all'interno del vostro convegno. Di che si tratta? Ma tempo che ci interroghiamo noi come diciamo gestori di progetti, ma anche le aziende che verranno a presentare le loro esperienze su come rendere più razionale diciamo l'uso delle risorse, l'uso dell'energia, evitare gli sprechi, rendere più economici diciamo i cicli produttivi e anche i modelli di business. Su questo sono stati diciamo messi a punto diversi modelli, uno che si è molto discusso è quello cosiddetto in inglese cradle to cradle, dalla culla alla culla, cioè il disegno esatto. E il progetto di prodotti fatti in modo da essere completamente riciclabili. Oggi c'è stato un ulteriore passo in avanti che è stato definito diciamo economia circolare, cioè non solo i prodotti disegnati in modo da essere completamente riciclabile, ma anche addirittura i servizi e i modelli di business. Quindi anche l'idea della sharing economy, cioè della possibilità di non essere proprietari di un mezzo, per esempio di un'auto, ma anche di una lavatrice, ma di utilizzarla in comproprietà, può essere un modo per avvicinarsi a questa economia circolare che si distingue rispetto diciamo all'economia tradizionale, che invece è basata su un approccio lineare basato su assunzione di materiale di energia e sullo spreco poi finale a fine ciclo di materiale di energia. Non so se è d'accordo Terragni, ma potremmo dare un'ulteriore definizione, cioè la prospettiva è quella che cessi il luogo di produzione, la fabbrica, come qualcosa che fa le sue cose ma in modo isolato, no? Autoreferenziale, e invece tutto viene inserito in una dinamica di relazioni fra le cose, per cui si è assolutamente interessati alla materia che entra, per esempio, in una fabbrica e quello che esce, come si è interessati perché diventa un impegno dal punto di vista dell'impresa e della produzione. Sì, noi abbiamo diciamo schematizzato sulla base di un lavoro teorico molto ben fatto dalla Ellen MacArthur Foundation, che è una fondazione inglese, abbiamo schematizzato quattro principi base di questa economia circolare. I rifiuti zero, quindi la assoluta assenza di produzione di rifiuti, e, analogamente a quanto succede nei cicli biologici, l'utilizzo di energie al massimo rinnovabili, la presenza non di consumatori ma di utilizzatori che devono avvicinarsi diciamo a beni e servizi in modo non da esserne proprietari ma da esserne diciamo così comproprietari, e infine, come ricordava lei, un approccio sistemico che presti maggiore attenzione ai flussi e alle connessioni piuttosto che ai singoli componenti. Questo per quanto riguarda anche la produzione e l'utilizzo dei prodotti. Va bene Terragni, grazie. Allora poi seguiremo anche noi il convegno di martedì prossimo. Adesso abbiamo due casi che possono dimostrare come questo tipo di principi si possono applicare. E qui sono due casi anche fortunati, perché vuol dire ci sono. Possiamo toccare con mano, guardare con gli occhi come si può fare. Allora, ingegner Roberto Mazzini, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, lei è, dirige il depuratore di Milano Nosedo? Presidente della società di scopo che è concessionaria per la gestione del depuratore di Nosedo. Allora, il depuratore di Nosedo, possiamo dirlo, insomma, con una, qui sì, con una certa enfasi, è un caso abbastanza singolare anche in Europa. Arriva tutta l'acqua da depurare, e in che modo voi riuscite a recuperare tutto il recuperabile? Praticamente al depuratore di Nosedo vengono rigenerati 150 milioni di metri cubi anno di acque di scarico ad un livello qualitativo per riuso irriguo. Cioè riuscite a trasformare quest'acqua, che è tremendamente inquinata, in qualcosa che si può usare per esempio per innaffiare campi o... irrigare campi o irrigare anche, voglio dire, coltivazioni, ortaggi. Certo. Diciamo, quest'acqua viene consegnata, se così possiamo dire, ad un consorzio irriguo storico che la distribuisce su un'area a sud dell'abbazia di Chiaravalle fino a Medegnano, irrigando 3.700 ettari di territorio. Tantissimo. Che produce mais, riso, erba e cereali, un 45% è a mais, 15% a riso, 40% erba e cereali. Quindi una importante soluzione che oggi Milano può vantarsi di avere, perché personalmente sono stato a parlare di questa situazione alla Settimana Mondiale dell'Acqua a Stoccolma, se ne è parlato l'altra Settimana Mondiale dello scorso anno a Busan in Corea, e su un testo a livello internazionale Milano oggi può dire che è la città europea, riusa, ricicla la totalità della sua acqua depurata. Questo insomma è un fatto tecnicamente molto interessante, cioè abbiamo un oggetto di frontiera, insomma, questo è... Senta, però c'è anche un altro prodotto di questa depurazione, che è tutto quello che togliete dall'acqua. Oltre al riutilizzo dell'acqua, dall'acqua di scarico recuperiamo energia termica, è possibile recuperare energia termica, in quanto dall'utilizzo che se ne fa dal tipo civile, dico doccia, dico in cucina, l'acqua di scarico anche in pieno inverno non scende mai sotto i 14 gradi centigradi. Perché questo è importante, questa temperatura? Allora, questo è importante perché probabilmente molti degli ascoltatori sentono parlare di geotermia. Sì, sì, ne abbiamo parlato spesso. Esatto, sì. E allora qui c'è disponibile un'acqua depurata che, dalla quale può essere prelevato calore, e con le pompe di calore, tecnologia pompe di calore, produrre acqua calda a fini di teleriscaldamento. Certo. Per le abitazioni. Qui abbiamo case Haller vicino e anche a non più di 1.000 metri un centro ospedaliero Loier. Questo può essere una forma di recupero di energia molto importante, visto che l'acqua è disponibile depurata. Una installazione l'abbiamo realizzata qui al depuratore, che è la prima, vuol dire, che si fa sul territorio italiano, cioè due importanti palazzine vengono riscaldate e condizionate con pompe di calore alimentate con acqua di scarico. Questo ha consentito di risparmiare mediamente 40 kWh con un'installazione di questo tipo. Con Metropolitana Milanese, che è il gestore del ciclo idrico integrato, si è predisposto un progetto per fare sinergia fra il recupero di calore dall'acqua di scarico e il recupero di calore che può essere fatto dai pozzi di prelievo dell'acqua potabile, per poi integrarsi nella città con grandi risparmi a livello di emissioni di CO2 e così via. Beh, direi allora che il quadro effettivamente anche qui è molto chiaro, il caso è molto evidente. Ingegner Mazzini, grazie. Grazie a voi. E adesso passo a un altro suo collega impegnato in economia circolare, Giulio Bonazzi. Buonasera Bonazzi. Buonasera a tutti. Lei è amministratore delegato di Aquafil, che è un'azienda, una società Voi mi pare che lavorate invece sul recupero del nylon? Sì, noi lavoriamo nel campo delle fibre sintetiche, soprattutto di nylon o poliamide. E sì, il nostro caso è sempre di economia circolare, perché l'impegno che abbiamo profuso negli ultimi anni è quello di cercare di recuperare gli scarti cosiddetti di tipo post-consumer, cioè che derivano dal recupero dei prodotti finiti alla fine del loro ciclo di vita. Il nostro mercato principale è quello delle pavimentazioni tessili, che in Italia con una brutta parola si chiamano moquette, nel senso che noi vendiamo le fibre a chi fa le moquette in tutto il mondo, esportiamo il 99,5% di quello che produciamo, e alla fine della vita delle moquette, invece di mandarle in discarica, cerchiamo di riportarle indietro, di separare i suoi componenti e di riciclare la parte di poliamide o di nylon al nostro interno. Oltre a questo, poi l'altro grande flusso di materiale che ricicliamo è rappresentato dalle reti da pesca, perché anche nelle reti da pesca c'è una forte componente di nylon, e siamo impegnati in recuperare le reti da pesca praticamente da tutto il mondo, perché le recuperiamo non solo dall'Europa, ma anche dal Nord Africa, dal Pakistan, dal Canada, è una grossissima fonte, e anche dal Sud America, perché ci sono tante industrie di allevamento del pesce in Sud America, e riportiamo indietro le reti da pesca. Anche in questo caso cerchiamo di smontarle, di separarle nelle varie componenti, riciclare internamente la componente di nylon e di mandare a riciclo le altre componenti, che possono essere i galleggianti, gli anelli, certo, il polipropilene, insomma, gli altri materiali. Ecco, tra l'altro, con un'operazione di questo genere si fa diventare vantaggioso il recupero, per esempio, di queste reti che sono tremendamente inquinanti, creano un sacco di problemi in mare e che tipicamente tutti lasciano lì, mentre invece in questo modo c'è un guadagno nel farvi arrivare questo materiale. Sì, uno dei più grandi problemi di inquinamento che oggi esiste è l'inquinamento dei mari. Ci sono veramente delle quantità enormi di rifiuti che vanno alla deriva, e tra essi la plastica sono una delle maggiori parti. È stato calcolato dall'Unione Europea, ma anche dalle Nazioni Unite e da vari altri enti, che circa un decimo di questi rifiuti sono reti da pesca che si sono accumulate nel corso degli ultimi 40 e 50 anni. E si parla di oltre 600.000 tonnellate di reti da pesca che sono o alla deriva o abbandonate nelle spiagge o sui fondali marini. Quello che cerchiamo noi di fare, appunto, anche con delle iniziative molto, molto particolari, soprattutto guidate da alcune società non a fini di lucro olandesi, ma non solo, anche inglesi, e anche andare a recuperare queste reti che sono oggi abbandonate sui fondali, sulle spiagge, e di riportarle indietro. Un lavoro enorme, ma molto interessante. Con una grandissima importanza. Allora, ricordo che ci sarà questo convegno all'Università Bocconi martedì alle ore 14, dove convegno nel quale si sentiranno molti altri casi. Io vi saluto, Mazzini, Bonazzi e Terragni, e buon lavoro a tutti. Grazie, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quanti anni è che c'è? 5.000, 10.000? Quanti anni è che abbiamo il pomodoro rosso? 50.000? Vabbè, è arrivato il pomodoro nero. Ebbene sì, Federico, parliamo di pomodoro nero. Lo facciamo con chi lo studia da anni, credo che siano almeno 5 anni, Perata. Esatto. Ecco, lei è rettore, Pier Domenico Perata, è rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e docente di biologia vegetale, ed è in questa veste di ricercatore che ha recentemente ottenuto nuovi risultati su questo pomodoro particolare, pomodoro nero detto, che forse però è doveroso spiegare al pubblico, perché forse ne abbiamo parlato qualche anno fa, ma capiamo esattamente che tipo di ortaggio speciale è. Certo, si tratta di un ortaggio particolare perché, a differenza del comune, normale pomodoro, non ha una colorazione rossa nella buccia, ma una colorazione viola tendente al nero. Questa colorazione è dovuta al fatto che questo pomodoro, oltre a produrre e accumulare carotenoidi, quindi quelli che danno il colore rosso al pomodoro e che sono dei potenti antiossidanti, il nostro pomodoro nero produce anche antociani, che sono un'altra classe di antiossidanti. Quindi in questo pomodoro troviamo due diverse molecole antiossidanti che ne fanno quindi un vero e proprio ortaggio nutraceutico, cioè in grado di prevenire alcune malattie. Ecco, questo gli conferisce un plus valore, se vogliamo. In realtà ha più proprietà nutritive, ecco. È proprio così, in realtà non è un evento unico in natura. Un altro caso ben noto probabilmente anche ai nostri ascoltatori è quello delle arance rosse. Le arance rosse troviamo l'arancio dato dai carotenoidi e il rosso viola dato dagli antociani. Anche in questo caso si sa che le arance rosse hanno un valore nutrizionale superiore alle arance normali. Dentro che colore è? È rosso. È rosso. Ecco, ultimamente avete fatto degli studi ulteriori e avete dimostrato che questo pomodoro nero in realtà è immune all'attacco di alcune malattie. Quindi, oltre ad essere, diciamo, tra virgolette, più salubre, è anche, come dire, lui stesso più forte, più resistente. Certo, anche in questo caso sono coinvolti gli antiossidanti. Queste si tratta di molecole che hanno la capacità di proteggere i tessuti e pertanto il pomodoro che accumula queste molecole non si ammala di alcune malattie fungine, delle comuni muffe grigie che ritroviamo frequentemente sulla frutta quando questa, come si dice, va male. Beh, in questo caso nel nostro pomodoro la muffa riesce ad attaccare le zone rosse del pomodoro ma non riesce ad attaccare le zone nere, dimostrando che gli antiossidanti come gli antociani hanno un'attività preventiva di queste malattie. Ecco, quindi è più resistente. Volevo capire se è un prodotto che voi state studiando, è un ortaggio, diciamo, ancora da laboratorio, ma per far capire agli ascoltatori, sarà possibile renderlo commerciabile? Noi pensiamo di sì, sono alcuni anni che cerchiamo di caratterizzarlo ulteriormente, d'altronde il nostro lavoro è di fare ricerca, non di commercializzare pomodori, ma abbiamo avuto alcune offerte da alcune società che producono piantine da orto e pensiamo che nell'arco di qualche mese possa concretizzarsi un accordo che consenta a chi vorrà coltivare questo pomodoro di farlo. Ecco, questo pomodoro è stato ottenuto non è OGM, cioè non è stato utilizzato, non è stato prodotto modificato geneticamente, ma è frutto di che cosa? È il frutto di un incrocio tra due varietà particolari di pomodoro che hanno delle modifiche al DNA, ma le modifiche al DNA non sono state causate dall'uomo, ma sono avvenute naturalmente. Noi sappiamo che tutti noi siamo tutti mutanti, il nostro DNA è diverso da quello del nostro vicino di banco e della persona che ci stanno accanto, quindi il DNA è diverso perché l'ambiente influenza la struttura del DNA. Nel caso di questi pomodori e alcune modifiche al DNA che tra l'altro stiamo studiando causano questa aggiunta di un carattere, quindi la possibilità di sintetizzare antociani. In realtà si tratta di due modifiche del DNA distinte attraverso un incrocio, quindi utilizzando il polline di una di queste varietà e trasferendolo sull'altra abbiamo ottenuto questa nuova varietà. Ci fa capire in due parole perché dovremmo aver bisogno di una nuova varietà? Ecco, qual è il significato della vostra ricerca che appunto dura da anni, quindi è sicuramente importante? Come mai un biologo vegetale si prende la briga di incrociare e far nascere un pomodoro nero? Si tratta di due interessi distinti. Da un lato c'è l'interesse scientifico, cioè comprendere i meccanismi molecolari che portano alla produzione di queste sostanze che, come abbiamo detto, hanno un ruolo importante anche nell'alimentazione, quindi nella prevenzione delle malattie. Dall'altro c'è l'interesse per la produzione di nuove varietà vegetali che consentono appunto di migliorare la nostra alimentazione. È un qualche cosa che l'uomo fa da sempre, la nostra alimentazione migliora e con essa migliora la nostra salute, migliora l'aspettativa di vita. Non c'è ragione per smettere di farlo e quindi continuiamo in questa direzione per fornire più opportunità di alimentazione sana e quindi più qualità della vita. Grazie mille, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. La settimana che viene è la settimana delle biotecnologie e lo è in tutta Europa. Ogni tanto l'Europa, il nostro governo europeo, mette in campo questo tipo di iniziative che servono a sensibilizzare contemporaneamente tutta la popolazione di questo che certo dovrebbe diventare il più presto possibile un nostro grande paese. Allora, settimana delle biotecnologie in tutta Europa. Lo scopo di questa settimana è una serie di attività davvero tante per sensibilizzare tutti i possibili pubblici sulle prospettive, sulle technicalities, sui tanti aspetti che riguardano questo comparto. Ecco, qui comincia a diventare complessa la cosa, perché mi viene subito da fare una domanda e la faccio a il nostro ospite questa sera, Alessandro Sidoli. Buonasera. Buonasera a tutti voi. presidente di Asso Biotech Italia. Allora, vede, mi sono fermato perché? Perché quando si parla di biotecnologia arrivati ad oggi diventa un po' difficile pensare di parlare come se si trattasse di una delle dei tanti comparti scientifici, perché non è facile stabilire il confine delle ricerche e delle applicazioni che possono venire fuori dalle biotecnologie. Sì, è assolutamente così, anzi è un confine che si sta sempre di più dilatando. Diciamo, le biotecnologie dal punto di vista dell'applicazione industriale ormai esistono da una trentina d'anni. Inizialmente erano soprattutto focalizzate sugli aspetti legati alla salute, con i nuovi farmaci, e negli ultimi anni abbiamo visto che invece questo confine si è assolutamente dilatato, per cui oltre alle applicazioni nella salute, quindi diagnostica, terapia, nuovi approcci terapeutici, stiamo andando anche sulla parte agroalimentare, tutta la filiera non food, quindi la produzione di biomasse, energia, combustibili, smacchiatori, produzioni industriali, e quindi stiamo parlando di un comparto industriale che di fatto non è definito dal punto di vista merceologico, ma quanto da essere un insieme di tecnologie che poi in modo trasversale e capillare si possono applicare in tutti i settori in cui l'uomo opera fondamentalmente. Quindi è un qualcosa che, se noi vediamo a livello mondiale, ha un peso economico adesso intorno all'1-1% del PIL, in prospettiva nel 2025-2030 dovrebbe arrivare quasi al 3%, proprio perché ha un impatto su tutti i settori collegati, ma questo non è solamente dal punto di vista di prodotto, ma anche dal punto di vista occupazionale. È stato calcolato, valutato che per ogni nuovo addetto in settori innovativi quali le biotecnologie si creano 5 nuovi addetti nei settori dell'indotto, contro un rapporto che è 1,5 rispetto a quelli tradizionali. Quindi non è solamente economia, ma è anche occupazione. Ecco, e di questo effettivamente c'è poca percezione, ma per esempio a noi che facciamo comunicazione, quando parliamo con quelli di scienza dei materiali, ci raccontano di ricerche nelle quali, per esempio, per produrre un certo tipo di vernici, certi isolanti, le cose più diverse, si incomincia ad entrare anche nell'utilizzo di cose che provengono dalla materia vivente, per non parlare poi di alcune ricerche in computer science, dove ci si sta concentrando sul fatto che la struttura biologica possa essere una delle più efficienti per creare computer che hanno memorie basate su molecole vitali. È per questo, insomma, che effettivamente il confine ormai è... Ma non c'è più, infatti, per questo che a livello anche della Commissione europea l'anno scorso le biotecnologie sono state identificate tra le key enabling technologies, con una risoluzione specifica in cui la bioeconomia per l'Europa viene, diciamo, evidenziata come una delle enabling technologies per una crescita sostenibile. Questo, quindi, l'utilizzo di tutte le fonti biologiche da mare, terra, rifiuti per le varie filiere industriali e per alimentare i processi biologici dell'industria sostenibile, cioè la sostenibilità di questa industria, quello che poi dovrebbe costituire proprio anche uno sviluppo per il futuro del mondo, diciamo. Certo. Dunque, senta, veniamo all'Italia. Intanto, la settimana che Asso Biotech organizza è fatta veramente da tantissimi appuntamenti, è impensabile che adesso vi si accenni, però c'è il sito www.assobiotech.it, si può andare a vedere il programma che si svolge in tante città: Napoli, Genova, Roma, Torino, Milano, insomma c'è tantissimo, e probabilmente noi vi racconteremo alcune di queste cose. Però Sidoli, io adesso invece la seconda cosa che vorrei chiederle è questa: so perfettamente che al centro di questa settimana voi volete anche sottolineare che, come purtroppo in altri casi, in Italia questo potenziale delle biotecnologie lo utilizziamo molto meno di quello che potrebbe dare. Certo, è assolutamente vero. E diciamo, in Italia è un settore industriale che è cresciuto molto in questi anni, quindi ormai l'Italia, vi do un numero per tutti, in termini di imprese biotecnologiche al terzo posto in Europa dopo Germania e Inghilterra. Però dal punto di vista economico, come avevo accennato prima, ha un grosso peso. Quello che succede è che purtroppo l'Italia non ha, come paese, compreso appieno il potenziale economico e occupazionale delle biotecnologie, e quindi non ha attuato delle misure di incentivazione della ricerca e innovazione, che sono chiaramente il driver fondamentale delle biotecnologie. Tutto si basa sulla ricerca. Allora, ci sono paesi europei dove da anni esiste una una misura quale credo un'imposta per la ricerca, che fondamentalmente consente alle imprese di avere poi un beneficio economico intorno al 30-40% rispetto a quello che si investe in ricerca in Italia. Questo non avviene, è uno dei, quindi quello che noi chiediamo non è tanto non è avere delle misure eccezionali rispetto agli altri, ma fondamentalmente avere quello che tutti i paesi che hanno capito questo prima di noi stanno facendo, altrimenti perdiamo il treno e ci troveremo ad essere un mercato dove acquisteremo tecnologie e prodotti che avremmo ovviamente potuto produrre, cioè, noi. In fondo lei ci sta dicendo che basterebbe poco, insomma. Basterebbe molto poco. Confindustria ha fatto una stima dove un credito d'imposta del 10% su tutta l'industria, quindi non solamente il biotech, costerebbe al paese circa, dico circa perché poi ci sono i vari dettagli, 1 miliardo all'anno. E questo 1 miliardo all'anno tipicamente vi avrebbe poi appaiato da un coinvestimento maggiore delle imprese con un moltiplicatore di 4-5, quindi 1 miliardo messo vorrebbe dire grosso modo 4-5 miliardi investiti in più che genererebbero nuovi posti di lavoro, crescita delle imprese, un ritorno in tutti i settori, quindi insomma, è proprio miopia assoluta questo, assoluta. Quando si parla poi del sistema sanitario, del costo, vediamo che poi alla fine tutto questo verrebbe poi ripagato da avere prodotti e cure migliori anche per i pazienti. Beh, certo, quindi poi i vantaggi sono evidenti, ma insomma accidenti, siamo sempre qui, questi treni che non si riescono a far partire. E finora non abbiamo ancora perso perché abbiamo dei bravi ricercatori, abbiamo degli imprenditori, dei manager che nonostante tutto si arrabattano a non perdere il treno e lo stanno anche facendo molto bene, molto dignitosamente. Sì, solo che in certi casi far partire il treno, bisognerebbe assolutamente farlo, è un po' complicato. Fa un po', come dire, dispiacere, per metterlo in modo molto elegante, quelle situazioni nelle quali basterebbe fischiare, no? Come fa il capotreno, per farlo partire. Questo dà un po' fastidio. E addirittura ci sono delle situazioni dove poi chiaramente facendo noi molta ricerca i finanziamenti per la ricerca sono importanti e le erogazioni che seguono questi finanziamenti non arrivano con ritardi pazzeschi perché c'è una burocrazia allucinante, c'è chiaramente una carenza di risorse, quindi le imprese sono strangolate. In questo momento abbiamo veramente un grosso problema di incassare questi finanziamenti che stanno veramente mettendo in ginocchio molte imprese. In questa settimana se ne parlerà senz'altro. Io ricordo allora www.assobiotech.it, lì trovate tutto il piano, insomma il palinsesto di questa settimana. Sidori, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a presto. Cosa è successo? È successo che l'ora è passata. Accidenti. Cari ragazzi e ragazze, ci si sente qui fra 7 giorni. Buona settimana.